Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. La notte ha portato due cose. Innanzitutto un dibattito presidenziale tra i due candidati, finalmente normale, l'ultimo confronto prima del voto per le presidenziali ci ha consegnato un confronto civile tra Donald Trump e Joe Biden. La notte ha anche portato il primo coprifuoco, quello scattato in Lombardia, tra le 23 e le 5. Ma delle misure che fanno più discutere, c'è sicuramente la scelta da parte della regione di portare a didattica a distanza tutte le scuole superiori. Altre regioni starebbero pensando a misure simili, altre ancora hanno imposto alle scuole un 50% e 50%, il caso del Lazio. La norma lombarda è contestata dai sindaci e dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6:31 minuti e 20 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, venerdì 23 ottobre. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e redazione, Gloria Guerrera e Giorgio De Luca in redazione, sempre la squadra di 24 Mattino si compone anche dei nostri autori, Margherita e Francesco Ciaraffo. Ci siamo dunque con, tra l'altro tra poco arriveremo a parlare del dibattito di questa notte tra Donald Trump e Joe Biden, come vi dicevo finalmente un dibattito normale, vi ricordate l'altro che avevamo commentato la mattina era invece stato sostanzialmente uno scontro con i due che si interrompevano a vicenda, un po' più Trump su Biden, però... E invece è stato un dibattito quasi normale. Ci siamo, tra poco si voterà negli Stati Uniti. Qua l'attenzione però è concentrata su altro, è ovviamente concentrata sulla questione Covid e sulla questione scuola. L'Irlanda ha appena dato il via libera a un nuovo lockdown, a un nuovo blocco totale. E indovinate qual è l'unica cosa che ha lasciato aperta? La scuola. E invece qua no, la prima cosa alla quale si pensa, la prima cosa da chiudere, sono proprio le scuole. Chiudere, chiaro, è didattica a distanza, ma... Voi ce l'avete i figli adolescenti? Sapete com'è? Ve lo ricordate com'è stato durante il lockdown? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. E poi il tema che affronteremo alle 8:35 lo faremo con la ministra della famiglia Elena Bonetti, con il professor Luigi Lopacco che adesso è assessore alla sanità della Regione Puglia, che ha dato l'ordine di didattica a distanza per le scuole superiori nella parte del triennio, cioè il primo biennio continua ad andare a scuola o a fare un misto didattica a distanza e scuola in presenza, e invece il triennio sarà completamente in didattica a distanza. L'impressione, se proprio posso dirlo, è veramente la sottovalutazione dell'importanza della scuola. E perdonate se su questo sembriamo un po' fissati, Dice l'assessore Lombardo Gallera che lo scaglionamento degli ingressi non ha funzionato. Fino ad oggi c'è stata la possibilità delle scuole di scaglionare gli ingressi, però tutto questo non ha sortito gli effetti sperati, perché gli scaglionamenti sono tra alle 8, alle 8 e mezza, alle 9, cioè non c'è una entrate molto diradate l'una dall'altra. E il numero dei mezzi messi a disposizione è sicuramente non idoneo. scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, io sono un insegnante e mi ricordo le verifiche sono state un dramma, e non solo le verifiche. Io poi lei la vede dal suo punto di vista, io da padre la vedo dal punto di vista dei miei figli e dei ragazzi, è stata durissima, vogliamo dirci, è stata durissima, e il pensiero di ricominciare è devastante, tra l'altro dopo essere appena ripartiti. Scrive un altro ascoltatore: ricordo che il conduttore nei giorni scorsi diceva pochi contagi nelle scuole. Sì, effettivamente nelle scuole ci sono pochi contagi, questo è vero, perché l'ambiente è piuttosto controllato. Dice il professor Massimo Galli che il problema è un altro, il problema sono i momenti di aggregazione. Adesso lo sentiamo, però se il problema è l'aggregazione, l'aggregazione è un problema dappertutto. Sentiamo. Parlo anche delle scuole con grandissima tristezza, ma non credo sia negabile che rappresentino anche loro un serio problema, se non altro per tutto quello che accade prima, l'arrivarci a scuola, e dopo il tornare a casa, certo. E comunque per i fenomeni di aggregazione soprattutto degli adolescenti, dei ragazzi delle superiori, ma non solo, attorno alla scuola, dopo la scuola. Qualcun altro scrive: forse non avete capito che siamo in guerra, volete la scuola aperta perché non sapete dove mettere i figli. Guardi che stanno mettendo in didattica a distanza i ragazzi delle superiori. I ragazzi delle superiori li puoi lasciare a casa mentre vai al lavoro, quindi non è questo il punto, non è il punto di non sapere dove mettere i figli. Il punto è il buco educativo e psicologico che crei nei ragazzi con una situazione di questo genere. Educativo e psicologico, cioè tu stai impattando sul futuro di questo paese con scelte di questo genere, e quindi sono scelte che vanno ponderate con maggiore attenzione, per cui ti ritrovi delle ordinanze nelle quali puoi, in sostanza hai un coprifuoco semifinto, per cui semivero, per cui in realtà se esci alle 22.59 con lo scontrino da un ristorante che recita 22.59 te ne puoi tornare a casa, e quindi è una misura finta, ce lo vogliamo dire. Metti un 80% di capienza negli autobus, che è una misura finta, perché è una misura finta anche quella, e poi che cosa fai? Quando quella misura finta dell'80% non funziona, chiudi le scuole. Scusate, ma di cosa stiamo parlando davvero? Il sindaco di Bergamo, Gori, questa cosa non è stata concordata con noi sindaci, dice. Nell'ordinanza di ieri è contenuto un provvedimento che è la decisione di portare tutte le scuole superiori lombarde alla didattica a distanza. 100% si dice per l'intero gruppo classe. Ora, questa cosa non è stata pattuita con i sindaci, a differenza di tutti gli altri provvedimenti. Il presidente dell'associazione Presidi, Giannelli. In altri termini, non è possibile imporre un sistema organizzativo rigido in tutte le realtà del paese oppure di una regione, lo diceva molto bene la preside nel servizio. È molto diverso parlare di Roma oppure di un piccolo centro in montagna, al mare, in campagna. Altro esempio che vi faccio io per la Lombardia: ha senso avere le stesse regole a Milano e in un paese sperduto della Val Chiavenna nel quale vivono 500 persone? Ha senso? Ditemelo voi, è una regione di 10 milioni di abitanti. Avevano detto lockdown o provvedimenti localizzati, ma a me pare che qua questi siano provvedimenti generali. Lo stesso discorso, se volete, vale per la Campania, per dare un equilibrio politico alla cosa. Stesso discorso vale per il Lazio, no? Il paesino sperduto della ciociaria, gli metti le stesse regole dove non c'è manco un contagio, gli metti le stesse regole di Roma dove la situazione sta, non dico esplodendo, ma sta entrando in seria difficoltà. Che questo è un po' paradossale, in tutta sincerità. A proposito di grandi città, il tema è quello, dice Massimo Galli, stiamo per avere la battaglia di Milano. Io ricordo di aver parlato a marzo che temevo moltissimo la battaglia di Milano. Ebbene, adesso stiamo per averla, la battaglia di Milano, che fu risparmiata dalla relativa tempestività del lockdown dell'altra volta. La città di Milano ha molta più gente suscettibile ad infettarsi ed ora il timore che si vada avanti in maniera dilagante con l'infezione è un timore reale che è testimoniato da quello che vediamo nei nostri ospedali. Dice il presidente della regione Zaia, non si può più scherzare. Io non voglio diffondere assolutamente apprensione nei cittadini, dico semplicemente ai cittadini che siamo entrati in una fase, che è la fase X, che è quella che non si scherza più, e quindi il naso va messo sotto la mascherina, non fuori. Per dire che se fino a ieri qualcuno poteva anche permettersi di far uscire il naso dalla mascherina, improvvidamente, do un consiglio spassionato: evitate di farlo perché potete trovarvi sorprese. Tre mesi di restrizioni, chiede il professor Crisanti. Fare un tre mesi di restrizioni un po' più severe per abbattere i numeri e riportarli a livelli che possono essere gestiti dal contact tracing, altrimenti non se ne esce. Esempi di quello che sta succedendo sul territorio. Il prefetto di Roma, Piantedosi. Vediamo se ce l'abbiamo, il prefetto di Roma Piantedosi, che racconta, adesso vi dirò in che programma televisivo, delle quattro piazze perimetrate. Sentiamo. C'è la possibilità di adottare queste misure dalle 21 e fino alle 24. In buona sostanza verranno adottate delle misure di, come dire, perimetrazione dei luoghi tradizionalmente oggetto di assembramenti. Un intervento prima di tutto su piazza Campo dei Fiori, sul Pigneto, via del Pigneto, piazza Madonna dei Monti, qualcosa anche a Trastevere su piazza Trilussa. Questo proprio come operazione anche fisica di perimetrazione, appunto, come dicevamo, degli spazi, con l'obiettivo di convogliare e di consentire l'accesso agli esercizi di ristorazione, agli esercizi che sono, insomma, su strada, ma nello stesso tempo evitare che ci possano essere assembramenti sulle altre porzioni degli spazi. Scrive qualcun altro: ancora non capisco perché nessuno proponga di svolgere le lezioni sia al mattino che al pomeriggio. Che il problema siano i sindacati? Un sospettino forse ci potrebbe essere su questa questione. Poi ci sono tante questioni organizzative, perché non è facile, lo diciamo chiaramente, perché poi da qua appare tutto facile, poi le cose non sono mai facili, perché per esempio ci sono professori che per alcune materie hanno 3, 4 classi, 5 classi, allora se una fa la lezione la mattina alle 8, l'altra gli metti la lezione alle 18, diventa tutto più complicato, è chiaro, però forse organizzativamente qualcosa di questo tipo si potrebbe pensare. Oh, a proposito dei sindacati, ma vi siete accorti che stamattina ci sarà qualche problema sul trasporto pubblico, perché il CUB, uno dei sindacati di base, ha deciso di proclamare un'agitazione e non sappiamo come andrà a finire a Roma, a Milano e via dicendo, proprio oggi, in questi giorni, proprio in quello che potrebbe essere per alcuni ragazzi l'ultimo giorno di didattica in presenza? Me ne siete accorti? Chissà, forse perché è venerdì, cambiamo argomento, va, e andiamo ieri a ospite di Corrado Formigli, Piercamillo Davigo, dopo che è stato mandato via dal CSM per voto dello stesso CSM, la ricordate la vicenda, arrivato a 70 anni, data il 20 ottobre, non è più un magistrato perché deve andare in pensione e quindi si deve decidere, può rimanere nell'organo di autogoverno della magistratura oppure no? Uno dei magistrati più insieme amati e odiati d'Italia, che suscita sempre grandi passioni. Cosa ha fatto? Come è uno standard italiano, ricorso al TAR, la spiega così. Io ho fatto ricorso al TAR perché la questione trascende la mia persona e riguarda la natura del Consiglio. Ci sono due modi di intenderlo. Il primo è di intenderlo come organo di rappresentanza, il secondo è di intenderlo come organo di garanzia. La Corte Costituzionale ha detto che è un organo di garanzia. chi sostiene la tesi della mia credenza interpreta nel senso della rappresentanza, ma interpretarlo nel senso della rappresentanza è difficile, perché la Costituzione dice che i componenti elettivi del Consiglio non sono immediatamente rieleggibili. Allora che rappresentanza è se uno, non essendo rieleggibile, non assume personalmente nessuna responsabilità politica di quello che ha fatto? L'ho capita, ma non fino in fondo. Dice Davigo, quindi non è una cosa, non è per la poltrona, figuratevi, è per me, cioè non è per me, è per una questione di principio. Sentiamolo ancora, va. E quindi è stata aperta una pratica, cioè ho chiesto io l'apertura della pratica per sapere se devo rimanere o no, perché mi sarebbe sembrato strano arrivare al 21 e non sapere se devo andare in ufficio oppure no. Se mi fosse stato fatto anche solo capire prima che era ritenuta problematica la mia permanenza, mi sarei dimesso io. Cioè avrebbe evitato questo voto che spaccava il CSM? Assolutamente. Perché lo ritiene che questo voto che ha diviso il CSM in qualche maniera danneggi l'immagine dell'organo di autogoverno della magistratura? No, danneggia però la mia. Perché mi fanno sembrare attaccato a una poltrona, se c'è qualcosa a cui non sono attaccato sono le poltrone. Andiamo al traffico, va. I would have never run. I ran because of you. I'm looking at you now. You're a politician. I ran because of you. All right, Vice President Biden, your response to that, and then I do have some questions for both of you. Well, I tell you what, I hope he does look at me, because what's happening here is, you know who I am, you know who he is. Questi sono Donald Trump e Joe Biden. Adesso parliamo un po' di questo dibattito di questa notte. Lo facciamo con la nostra Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Giulia, come stai? Buongiorno, buongiorno. Bentornata. No, sono un po' affonnata, però energizzano sempre queste prove di giornalismo e di democrazia e di trasparenza. Lo capisco bene. Stefano Graziosi, analista politico, scrive su Panorama e sulla Verità. Stefano, bentornato anche a te. Eccoci. Buongiorno. No, grazie mille per l'invito. Prima di venire da voi chiedono, dice, non fare il pesce in barile, una cosa di questo genere. Di quali sono le motivazioni dello sciopero del CUB che si svolge oggi venerdì? Vi leggo giusto le prime quattro righe: contro il liberismo sempre più sfrenato, privatizzazioni, liberalizzazioni e per cambiare il sistema che genera disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e verso i migranti. Questo lo sciopero di oggi. Quindi l'universo mondo, cioè non è una rivendicazione salariale, è uno sciopero così per sottolineare una serie di problemi. La metto là, poi dite la vostra se volete al 349-238-6666. Allora, è stato un dibattito, parto con Giulia e poi vorrei sentire anche Stefano, un vero dibattito, cioè quello dell'altra volta ci aveva fatto pensare male, avevamo pensato svaccherà anche il prossimo, sarà uno scontro orrendo anche il prossimo, e invece quello di stanotte è stato un dibattito vero, Giulia, no? Sì, mi ha colpito il commento, adesso io sto ascoltando tutti i vari commenti post dibattito e leggendo tutti i vari breaking news che arrivano, il commento di un corrispondente dal quartier generale repubblicano che ha detto hanno tutti tirato un sospiro di sollievo, perché Donald Trump, soprattutto nella prima parte, ha tenuto un po' il freno tirato, è stato sicuramente meno aggressivo dell'altra volta, complice naturalmente il fatto che per i primi due minuti di ognuno dei sei segmenti il microfono di chi non stava parlando era comunque muto, perciò nessuno avrebbe potuto interrompere neppure volendo. L'altra cosa che mi viene da dire è il commento che ha fatto un analista del Los Angeles Times: i 46 milioni di americani che hanno già votato, su circa 200 e passa che hanno diritto, quindi un quarto circa, tirino a loro volta un sospiro di sollievo, perché in questo dibattito nessuno ha dato ragioni per cambiare idea. Chi probabilmente ha votato non è che ascoltando questo dibattito dicesse oddio, vorrei cambiare il mio voto. Sì, radicalmente. Ecco, questo tema tra l'altro teniamolo ben presente per tutto il processo a venire, questo tema del voto per posta, perché furono poco più di 30 milioni nelle elezioni del 2016 coloro che votarono per posta, adesso siamo già arrivati a 46 milioni, 47 milioni, quindi... tra l'altro, scusa Simone, sì, è voto per posta e il cosiddetto early voting, cioè gli stati, sì. Tra questi c'è il Wisconsin, che è uno stato delicatissimo, dove già nei giorni scorsi molte persone hanno potuto votare, quindi è un meccanismo che naturalmente per noi è un po' difficile da capire, anche perché ogni stato, a proposito di federalismo spinto, ogni stato ha le sue regole. Visto che ne stiamo parlando, Stefano, un Donald Trump molto più presidenziale, sempre lui, però un po' più presidenziale dell'altra volta. Beh, certo, ha tirato un po' il freno a mano questa volta, al di là poi delle regole, come veniva ricordato prima, ci sono stati, insomma, erano trapelate delle notizie ufficiose negli scorsi giorni con i coach che gli avevano detto, insomma, sii un po' più calmo, perché in questo modo riesci magari ad intercettare più voti anche a livello trasversale. Non è stato un dibattito, appunto, che secondo me sarà destinato a spostare chissà quanti voti, perché alla fine i due hanno più o meno ribadito le posizioni di sempre sul coronavirus, sull'immigrazione clandestina, sulla sanità. Non ci sono stati, come dire, guizzi eccessivi. Ravviso però, secondo me, soprattutto nell'ultima parte, nell'ultima mezz'ora, una stoccata efficace di Trump che può aiutarlo nella fattispecie in uno stato chiave, soprattutto per come sta andando in questo momento, la piega che sta prendendo la campagna elettorale in Pennsylvania, quando i due hanno dibattuto sul clima, in particolare sulla fratturazione idraulica, che è un tema, insomma, lì molto sentito, soprattutto in Pennsylvania. Credo che quella stoccata di Trump nella parte finale possa aiutare maggiormente lui che non Biden. Complessivamente non parlerei di un vincitore o di un vinto, perché si sono tutto sommato abbastanza equivalsi e bilanciati. Lo ricordiamo, quello di cui parlava Stefano Graziosi è un metodo di estrazione del petrolio che ha fatto sì che negli ultimi anni gli Stati Uniti diventassero il maggior produttore mondiale, che è appunto il fracking, che si tratta in sostanza di fratturare delle rocce in profondità dalle quali poi si estrae il petrolio, ed è su questo tema appunto che Trump ha cercato di catturare un pezzo del voto della Pennsylvania. Su cose un po' più di chiamiamole di colore, ma nemmeno troppo, di scontro su altre questioni. Giulia, a me ha fatto sorridere la parte nella quale Trump dice, in una stanza nella quale la moderatrice del dibattito è di padre nativo americano e di madre afroamericana, dice: io sono la persona meno razzista di questa stanza. È stato un po' buffo, devo dire la verità, perché nemmeno Bernie Sanders avrebbe potuto dirlo in quella situazione, però anche quel tema è entrato, no, nel dibattito. Sì, per forza, anche perché almeno la quarta volta, ecco, io devo dire, ho avuto una sensazione brutta di non déjà vu, ma déjà sentito, perché hanno entrambi ripetuto un po' degli slogan, c'è caduto anche Biden in questo, e Trump ha ripetuto molte volte, e in questo caso è stato Biden che gliel'ha ricordato, di aver detto che lui è il presidente americano che più ha fatto per gli afroamericani dopo Abraham Lincoln, che è colui che ha abolito la schiavitù. Quindi questo tema è andato avanti per slogan. Segnalo solo, a proposito di chi ha vinto e chi ha perso il dibattito, ci sono molti negli Stati Uniti, c'è questa pratica dell'instant polling, tra chi ha seguito il dibattito, quello della CNN, che peraltro è naturalmente un network molto avverso, diciamo, alle posizioni di Donald Trump, per il 53% il vincitore è Biden, per il 39% Trump. Però poi loro hanno anche analizzato i vari temi, e su quello della leadership, che è un po' delicato, perché tra l'altro Joe Biden anche ieri sera si è un po' perso, per esempio ha chiamato i Proud Boys, il famoso gruppo di suprematisti, li ha chiamati Poor Boys, perché a volte fa fatica a ricordare i nomi, questo è oggettivo. Però sullo specifico tema della leadership, lì è proprio 49%, 49%, sì. Quindi continua a avere un po' questo problema, lo sappiamo, insomma, sì. Non è certo un candidato carismatico, compierà tra poco 78 anni, da 47 anni, e da qui la clip che hai mandato all'inizio, da 47 anni lui comunque è un politico di professione, sì. E questo è un altro cavallo di battaglia di Trump: io non sono un politico di di professione. Stefano, a chiudere, quindi secondo te in 10 secondi non smuoverà molto il dibattito di questa notte alla fine? Sei d'accordo con Giulia su questo? In termini di voto io non credo. Credo questo sì che parzialmente possa essere in modo molto lieve però avvantaggiato Trump, non solo per la questione del fracking ma anche per questo tema dei 47 anni di Biden in politica. Beh, Trump è riuscito ad incalzarlo abbastanza, alla fine Biden se l'è cavata dicendo vabbè ma io avevo il congresso repubblicano contro quando ero vicepresidente. Sì. Ripeto, si sono molto bilanciati, non penso ci saranno grossi spostamenti, però credo che lievissimamente Trump, non dico esca vincitore, ma esca avvantaggiato da questo sbaglio. Grazie Stefano Graziosi, grazie, analista politico, scrive sulla Panorama, su Panorama, sulla Verità, e la nostra Giulia Crivelli del Sole 24 Ore, ma anche voce super nota qua di Radio 24. Grazie Giulia, grazie Stefano. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.